va ora in onda Piazza Alta, un programma di e con Enzino e Marzi, alla conduzione tecnica Simone. Hone. Giovedì 28 maggio 2015. Siamo connessi, signori e signori. Piazza Alta, nell'ultima puntata della sua seconda stagione. Simpatici amici. Come ti senti? Benissimo. Mangiato una pizza. Fantastica. E uno spaghetto allo scoglio. Adesso l'abbiamo detto che l'abbiamo mangiato. Siamo a posto. Buon ascolto. È dalle F frequenze. 53esima puntata di Piazza Alta. Proprio ormai stasera. Incredibilmente. Siamo ancora in marce scibili e irrefrenabili. Stay tuned. Ok. Buon ascolto. Scatenatissimo Joy Division. Fantastico. Con Love Will Tear Us Apart, lo dico velocissimo apart, così almeno non tuo si capisce veramente, ogni sera è incredibile. Ripetiamo che questo, per chi non lo sapesse, è Piazza Alta, siamo su Radio F, stiamo trasmettendo dal 28 maggio del 2020, quindi e questo un po' sarà il tono della serata, perché qualche grado in più nella bevanda all'ora di cena Enzo lo manda direttamente in orbita. Perché non sono abituato, tutto qua. È vero, il problema è questo. Di questo te ne do atto e voglio dire, con te si fa bella figura con poco, perché si spende poco, come esatto. Diceva un mio amico. E di cosa chi siamo? E soprattutto i nostri radioascoltatori, cosa come ci possono fare? Ascoltare? Allora, fondamentalmente, cioè, se non lo sapete ora, non lo sapete, ragazzi, più. Però diciamo che compiti per le vacanze. Ascoltate la Rai. Compiti per le vacanze, perché questa è l'ultima puntata prima del meritato riposo. Ecco, segnate estivo. Nella vostra agenda. Cosa potete fare? Non disperate, perché potete ascoltarci già da domani in podcast questa puntata sulla nostra pagina Piazza Alta di sì, Facebook. Facebook, mamma bravo. Mia. Però se siete nostalgici, Certo. Potete riascoltare tutte le puntate sulla nostra pagina Facebook, ma di più dal certosino lavoro di Simone. Bravo. Che sul sito, sul nostro profilo Facebook, chiaramente, oltre a quello che settimanalmente consiglia a tutti coloro che ci seguono, tutte le nostre puntate le possono scaricare in podcast. E questo l'ho già detto. Sì, ma l'ho detto in un'altra maniera, perché non tutti hanno lo stesso modo di sentire. Diciamo che avete la possibilità anche di vederci, perché sulla nostra... Perché avevo piacere di dire certosino. Ma allora... Sul nostro canale YouTube Piazza Alta TV potete anche rivedere le nostre brutte facce, le mie e quelle di Enzo, chiaramente. E le non quelle dei nostri ospiti. Esatto. Ma a proposito di ospiti, di cosa parliamo stasera? Questa sera, incredibile, attenzione, no, questo lo devi dire te. Stasera parliamo di uno degli eventi sportivi, ma che hanno segnato. Ma di più, anche diciamo popolari, culturali, perché anche quella è stata cultura. Coinvolgente. Che hanno segnato di più questo paese, nonostante sia durata non troppi anni questa manifestazione. E noi approfondiremo. Esatto, perché questa sera parliamo del mitico Torneo dei Rioni. Attenzione! Buonanotte ai suonatori! Non parte. Aspetta che la rifacciamo, eh? Aspetta. Perché è strano? Perché... Non è strano, io per me è la consuetudine. Mi fai una promessa? Attenzione! Il Torneo dei Rioni, da un'idea di un foianese, un'icona dei nostri tempi. Nei ruggenti anni Ottanta, un evento che ha scaldato gli animi e catalizzato il calcio amatoriale. La Pace, Centro, Case Nuove, Concone, La Gatta Non Si Muove, Via di Cortona, il Pozzo Renzino, Pep Stazione, sfidiamoci in Silgo l'Artenzone. Tutti allo stadio, un segno che a Foiano i palloni tirano, ma soprattutto girano. Let's go out tutti insieme erano i Coldplay con Clocks. Che bella cosa. 5 primi, 8 secondi, ci hanno deliziato, è vero. Ma finalmente iniziamo a parlare dell'argomento che da mesi aspettavamo di veramente affrontare. Stiamo scoprendo dei periodi che hanno, per cui Foiano ha vissuto degli eventi sportivi incredibili. Bravo, perché abbiamo parlato appunto del Foiano quando è stato promosso in Serie D, dell'Avis Pallavolo che è stata in Serie A2. Adesso parliamo del momento più alto per noi, più diciamo terra terra, senza nulla togliere a nessuno, e parliamo del torneo dei Rioni. Marcello, presentaci gli ospiti graditissimi in questa stanza. Correvano gli anni 80 praticamente, e tra i vari protagonisti c'erano anche Marcello Fatucchi. Buonasera Marcello. E Franco Del Santo, che sono qui con noi in studio stasera e che abbiamo invitato per parlarci di quell'esperienza. Allora, iniziamo subito con una domanda facile. Quando e come inizia il torneo dei Rioni? Chi risponde? Franco, ma poi non è una data precisa, non è che vogliamo, ma insomma diciamo... Allora, il torneo dei Rioni nasce... E anche da un'idea di chi, se vogliamo. Ecco, nasce come idea... Mi sono preparato, ma non avevo dubbi. Fra. Nel giugno 1980. Ok. E poi si fa attivo, operativo l'anno dopo. Ah. C'è, come si può dire, un predecessore che magari si ricordano pochi. A metà degli anni 70 ci fu un'esperienza che durò poco, 2 o 3 anni, il torneo dei bar. Ok, sì. E praticamente durò 2 o 3 anni, non di più. Era una sfida tra bar, e quindi più o meno i bar di oggi, il bar dei Filarmonici, che tra l'altro una volta lo vinse, l'MCE, la Pace, vi immaginate tutti. E poi finì e quella volta nel giugno 1980, se vuoi poi mi incalzi e ti do le spiegazioni, nacque l'idea di un torneo simile praticamente, però improntato su Rioni, che poi a Foiano non hanno una caratterizzazione vera e propria, certo. Però si possono comunque comporre La Pace, il Carmine, il Pep, eccetera eccetera, e che appunto sfociò in questa bella esperienza che per me si chiuse nel 1986, perché mi feci male e dissi mai più, però durò 2 o 3 anni più, quindi secondo me prende tutta la decina degli anni 80. Ah, ecco. Sì. Volevo una conferma, se è vero che l'idea, diciamo, a parte questo piccolo questo momento a metà degli anni 70, uno dei maggiori propulsori di questa iniziativa è stato Loreno Gasperini, se non erro, che si è dato anche da fare nell'organizzazione e nella realizzazione di questo evento. E dico bene, se le volevo ricordare, perché l'ho detto un pochino veloce prima. Bravo, ricorda i Rioni. Gli 8 Rioni che si scontravano, le 8 squadre erano il Centro, il Concone, Via di Cortona, Case Nuove, Peppe Stazione, Renzino, La Pace e il Pozzo. Perfetto. Attenzione, da dire che erano 7 Rioni praticamente, o meglio 6 Rioni più la frazione Pozzo, e poi c'era il Concone. Il Concone, spiegateci, visto che poi tra l'altro militavate nel Concone, spiegateci di che cosa si trattava. Ma il Concone era praticamente, mancava la squadra dell'ideatore che fu i Gasperini. E allora dice: facciamo il Concone, cioè tutti quelli che lavoravano in enti pubblici, tipo comune, ferrovie, io lavoravo alle Poste, Croce Rossa, ospedale. Lui le accorpò tutte dando questo nome Concone. Allora tutti, tu giochi nel Concone. Quindi erano 7 rioni, diciamo, localizzati geograficamente, più il Concone, più questo mitico Concone. La maglia del Concone, almeno la prima, quella che ricordo io, era bianca con i numeri cerchiati di nero, che si rifaceva un po' alla Germania dell'Ovest, se non sbaglio. Questi sono ricordi di ragazzino che veniva a vedervi giocare. E io ho ricordanza di grandissima affluenza di pubblico. Cioè, il successo del torneo di Rioni era veramente strepitoso. La formula, se non sbaglio, erano 2 gironi da 4. Giusto, Franco? Dici, sì, se ci vuoi ricordare, sì, te. No. Ma ricordaci un po' se La formula per rimanere da ultimo erano appunto due gironi da quattro, e per giocare il più possibile, perché tutti, a quel momento può giocare, nessuno veniva eliminato. Bellissimo. Ma l'ultima del girone poi incontrava la prima dell'altro girone, per cui giocavamo tanto, giocavamo tra fine maggio e fine giugno, sì, sì, sì, sì, con un caldo sempre bestiale, non è come ora. E lì, dunque, dopo il girone eliminatorio all'italiana, dopo c'erano delle eliminazioni dirette, giusto? Sì, io mi ricordo epiche partite finite ai rigori con i portieri protagonisti. E qui Marcello, non lo so, insomma, a botte. No, non so, a me mi è giunta voce che il tuo ruolo fosse portiere, sì, sì, sì, il mitico portiere del Concone. Mentre Franco, il tuo ruolo? È ovviamente dove giocano i geni, a mezzocampo. Su questa io mi fermerei, andrei col prossimo brano con un momento di riflessione sui geni. Dal 1976, buon ascolto dalle F Frequenze. L'uomo con megafono parlava, parlava, parlava di cose importanti, purtroppo i passanti passando distratti, a tratti soltanto sembravano ascoltare il suo monologo, ma l'uomo col megafono credeva nei propri argomenti, per questo andava avanti ignorando i continui commenti di chi lo prendeva per matto. Però il fatto è che cercava, sperava, tentava di bucare il cemento, gridava nel vento parole di avvertimento e di lotta, ma intanto la voce era rotta e la tosse allungava i silenzi, sembrava che fosse questione di pochi momenti, ma invece di nuovo la voce tornava staccati dal mondo, lui così magro, profondo e ridicolo insieme, lo sguardo di un uomo che preme davvero qualcosa e che grida un tormento reale, non per un esaurimento privato e banale, ma proprio per l'odio e l'amore che danno colore, calore, colore, calore. E questo è uno degli autori preferiti dal sottoscritto, ovvero Daniele Silvestri. Il brano è L'uomo col megafono, ma ascoltatelo, perché ce ne sono decine e decine di brani da ascoltare. Bene, mi guardi perplesso. Sì, no, perché pensavo che da Tozzi a Pink Floyd e poi la tua cultura musicale non avesse più grandi sprazzi. Ho avuto degli smarrimenti, degli sbandamenti sono arrivato a Daniele Silvestri. Ma proseguiamo a parlare, da queste prime battute, parlando del torneo dei Riuni, mi sono subito reso conto una cosa, perché Franco ha detto un paio di volte c'era la voglia di giocare, cioè questa organizzazione, queste squadre che si erano formate con tanto entusiasmo avevano veramente, da quello che posso aver capito, il fine ultimo, quello di stare chiaramente insieme, di divertirsi, di giocare al pallone e di scontrarsi, diciamo, nel tappeto verde. È vero, però poi alla fine contava vincere, quello insomma, è chiaro. E qui i nostri ospiti, Franco e Marcello, non l'hanno mai fatto. Ecco, non abbiamo mai vinto. Ecco, dici Marcello, raccontaci un po'. Ma l'unico momento importante, diciamo, dove si poteva il Concone, ricordiamo, arrivare alla vittoria del Concone, il primo anno, mi ricordo, sarà il terzo o il quarto anno, si fece una semifinale che ci davano tutti per vincenti, perché sarà la squadra forte l'anno. Moro allenatore, da ricordare, Moro allenatore alla panchina, di cui dopo ne parlerà, esatto. Franco, a me mi diceva: Marcello, stai calmo, perché ero un po' agitato, ricordiamo, ma Marcello c'era il portiere. Allora c'era una palla che stava uscendo e io la andai a prendere, mi buttai e mi ruppi la spalla. Attenzione. E il Moro di venne in campo e mi voleva picchiare. Dice: ora con chi si gioca? Insomma, quello era l'unico anno che si poteva cercare di vincere, perché si stava vincendo anche 1-0, 2-1 contro Renzino, mi sembra. Insomma, fu talmente ignorante il Moro, me le disse tutti i colori, che all'ospedale mi toccò andarci da solo, che non mi voglio portare all'ospedale. E tuttora, quando mi vede che si parla di tanto la rovina del Concone, sei stato te, perché io te l'avevo detto, quella palla è fuori, te l'avevo anche chiamata, che ci sei andata a fare, pigliare. E comunque alla storia, per qualcosa bisogna sempre passarci, sì, sì, sì. Va bene anche così. Ma a proposito di aneddoti, io so che Franco ha un bel aneddoto sui seggi elettorali, mi ha detto fuori onda, ricordami il seggio elettorale, nel periodo giusto per domenica ci sono per le elezioni, inquadrare. Per cui raccontaci, Franco, raccontaci. Beh, se ti dovessi raccontare tutto quello che ho in mente, sì, ma comunque si va per le lunghe, ma questo è uno dei più bellini. Allora, che è bellissimo, scusa Franco, perché se ti dovessi raccontare quello che hai in mente, Enzo, finiremo subito, perché ma voleva fare una battuta su di me. No, questa è molto simpatica, cioè nel Concone in quell'anno lì giocavamo Giorgio Ugolini e io, e eravamo in questa domenica, sì, tutti e due presidenti di seggio elettorale al Pozzo. Ah, presidenti, perché eravamo appunto tutti e due presidenti della sezione 8 e 9 al Pozzo, c'erano due, va bene, e però c'era la partita di domenica. C'era la partita, e la partita la dovevamo giocare alle 9. Allora, che facemmo? Non era vietato. Incaricammo il vicepresidente e gli dicemmo: la verità, si va a giocare tra due ore e un quarto, siamo qui, non vi preoccupate. Tenete presente, non c'erano cellulari all'epoca. Certo. Allora, che è successo? Quindi verso le 9:30 ci verso l'8:30 ci assentammo, arrivammo giù al campo e venne fuori che non era il Concone a giocare alle 9, ma c'era stato un cambio, sarebbe stato un'altra partita e noi avremmo giocato alle 11. Al momento dell'apertura delle urne, no, era la mattina. Ci guardammo bene dal tornare e di dire, per cui guardammo la partita, facemmo la nostra partita, che finì tra l'altro con un bollore, ve potete sarà immaginare, luna, a giugno alle 11, il tempo di una sciacqua. Ritornammo alla sezione alle 3, alle sezioni alle 3, e trovammo il capitano. Capitano il capitano della tenenza di Cortona. che non è che era successo nulla, ma c'era un po' preoccupato perché per dove erano andati questi due, scusate, cazzo del presidente. E io mi ricordo che, pur essendo magro, sudavo di continuo, e la dicevo la verità. Il capitano ci chiese: avete vinto? No, si è perso, faccio rapporto. Non era successo niente. La mia povera mamma, che veniva da un'altra esperienza, mio babbo, sempre impiegato comunale, ma perfetto, quando seppe la storia, Franchino. E vabbè, però le valse la pena. Poi dopo parlo del Moro. Sì, assolutamente. Tutto vale la pena di quello che si è vissuto, ma questa fu fenomenale. Guardate, vabbè, il capitano, e poi non da solo, con 3 o 4 persone, che si è fatto? Nulla. No. A proposito di carabinieri, dopo te la racconto. No, ma puoi dirla anche ora, Marcello. Vai. No, qui non si rientra nel Concone, ma si rientra nel grande Borgo Rosso Football Club. Accenniamolo già adesso. Già. Perché io, oltre a giocare nel Concone, giocavo anche nel Borgo Rosso, che è stato. Che era una squadra amatoriale. Era una squadra amatoriale, ma insomma, di un certo composta livello, di tutti ex giocatori di un certo livello. E mi ricordo che alla finale toscana, che si doveva giocare a Sovicille, dove non si sapeva nemmeno dove era Sociville, comunque si partì con le macchine, si andò a Sociville, allenatore Chiodino. Oh. beh. E vice Corbelli. Diciamo che la partenza va la creme della creme. Insomma, si arriva a Sovicille 2 ore e mezzo prima della partita. C'era una squadra di Serie A. No, di una squadra di Firenze. Ah. Ma c'era anche il suo babbo. Sarebbe il babbo di Simone. Che segnò lui. Insomma, si arriva a Sovicille, si va a pigliare il caffè. Io con la mia macchina ero insieme al Corbelli e mi sembra Marcello Scapecchi, il Chiucchi, no? Andò lì, si prese il caffè, si uscì, si trovò 5 carabinieri davanti con le pistole puntate. La miseria. Dico: scusate, che è successo? Dice: venite con noi. Ma dico: ma noi ci sarà partita, venite con noi. E ci portarono in caserma, ci portarono tutti, un nome, cognome, chi sera, che non sera, perché sarà lì. E insomma, successe questo, che alcuni giorni prima a Sovicille avevano rubato e avevano ferito un carabiniere e erano scappati là con un 127 blu come il mio, con gli ultimi 3 numeri di targa uguali. Bellissimo. Allora, come video la mia macchina posteggiata. No, non ci pensarono due volte. La macchina ce la misero sotto sopra. E insomma, dopo telefonarono ai carabinieri di Foiano per sapere chi c'era. Certo. E mi sembra c'era il maresciallo Russo che rispose: ma voi siete matti, rilasciatevi. E fuori ragazzi, sono ragazzi per bene, di famiglia. E soprattutto devono giocare. E devono giocare a pallone. Ora lui ha fatto venire in mente carabiniera, ma perciò una storia del genere. Ora andiamo con un bravo, ma almeno vincesti. Si perse 2-1. Ma l'epilogo è sempre più o meno lo stesso. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Every time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. 1,000 people in the street, singing songs and a carrying signs. mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Buffalo Springfield con uno dei suoi brani di successo maggiori, che non vi sto a dire perché non vorrei offendere la vostra conoscenza. For What It's Worth. Worth. Bellissimo. Con TH, perché va. Io ti dico la verità, Enzo, se non fossi qui l'ascolterei la trasmissione solo per sei sentire buono. Il tuo disannuncio. Ma ricordiamoci che questa è Piazza Alta, questa è Radio F, e che stasera è l'ultima puntata. È l'ultima puntata e potete riascoltare tutte le puntate sulla pagina Facebook con il podcast, oppure riguardandoci sul canale YouTube Piazza Alta TV. È l'ultima puntata, è vero, ma forse attraverso i nostri social, le nostre pagine social, non ci lasceremo subito. Che bella sta cosa, lascia sempre una speranza per il futuro. Una porta aperta, c'è una speranza. È una per parola tutti. Buona per tutti. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un evento importante che, diciamo, ha interessato il paese per qualche anno, e un evento sportivo che ha poi ottenuto anche un grande successo di pubblico, e di questo volevo un attimo parlare: il torneo dei Rioni. Ah. Siamo qui con Franco e Marcello, e che mi diceva appunto Franco prima, c'era un grande afflusso tra parenti, affini, simpatizzanti ed amatori, che venivano richiamati al campo sportivo, allo stadio di Foiano, durante questo torneo. E tra le altre cose pare che, oltre che all'aspetto strettamente sportivo calcistico, poi ci fosse anche più o meno che le partite fossero piuttosto maschili, diciamo così, alla erano fine molto c'era anche Marcello prima ci diceva anche che non tutte le partite, ma spesso come finivano, Marcello? Insomma, abbastanza diciamo che c'era un confronto. Qual era la rivalità che si era creata? Era forse erano, diciamo, più accesi. Erano più accesi di tutti, sì. E anche la pace. Però. E infatti io ho dei ricordi sulla pace Renzino non indifferenti. Quando erano c'era scontri. Quel derby era. Ora, ecco, ma io volevo capire un bello una cosa. I giocatori erano proprio tutti specificatamente scelti in quelle zone, in quell'area geografica dove abitavano, oppure c'era anche di anno qualche in anno infiltrato, ecco, qualche passaggio polemica di tesserini? Sì, sì, qualche infiltrato c'era. Magari aveva una zia in via di Cortona, sì, hai visto come fanno ora il bisnonno? Anche perché era tanta la voglia di giocare che se uno si trovava fuori zona e no, voleva giocare, poteva prendere anche se non aveva spazio nella sua zona. Pare che qualcuno anche con il doppio passaporto nell'ambito della stessa giornata facesse. Ti dico come fanno ora i sudamericani che hanno i trisavoli del Veneto, sì, così sì. Gente di Via del Duca faceva appello a dei trisnonni in Via di Cortona. Ma volevo chiedervi questo: siccome io vengo da un passato anche, ahimè, dove, no, ahimè, no, assolutamente, anzi, dove ho fatto l'arbitro, gli arbitri. Vi ricordate qualche arbitro? Chi era con quei folli che venivano scelti arbitrare? Avete qualche ricordo sugli arbitri? Allora, no, ne è rimasta approfitto una... su quello che riguarda gli extracomunitari. No, passami una battuta. Cioè, gli la regola era la residenza nel comune. Però che succedeva? Succedeva che sempre veniva richiesta la deroga per uno. Dice, ma quello è foianese, sta a Bettolle perché la sua moglie vuole che sia. E allora, diciamo, uno o due si mettevano sempre. C'era il Dade, tanto non c'è sente nessuno, che faceva e ha fatto una battaglia per far giocare il suo cognato, che sì, era residente a Roma, che volevi litigare poco come giocava, vai, saluto. E poi la residenza non contava per il Concone. Certo, lì era importante il luogo di lavoro a Foiano, ma non dove? Ah, da dove veniva? E ora mi sono perso l'altra domanda. No, qual era? Gli arbitri. Gli arbitri, noi eravamo affidati alla Arci Wisp. Per cui cani e porci come colcisse, ma in linea generale gli arbitri, dai, sono come quelli della Serie A, sono poi come le ricevi te. Quando vuoi parlare sono del Moro con gli arbitri, andiamo avanti. Allora, sono le vittime sacrificate. Però no, è volato solo un cazzotto che ovviamente in tutti questi anni che ovviamente ha visto coinvolto il Concone. Il pubblico deve dare il buon esempio e lo dette il Concone. Il resto polemiche eccetera, dai, fa parte del gioco. E mi ricordo, se non sbaglio, è che c'era il premio ovviamente per la prima classificata fino alla quarta, e poi c'era miglior giocatore, sì, capocannoniere. Benissimo. E anche miglior portiere, se non sbaglio. No. C'è mai stato. Ah, non c'è mai stato. Questo non mi lo ricordo. No, ma il capocannoniere sì. Chi, voi vi ricordate chi è che ha vinto più premi di giocatori o qualcuno che ha vinto qualche anno qualche premio? Niente. Ma erano partite dove venivano fuori un grosso numero di gol oppure erano, facevate melina? No, in genere diciamo i gol non mancavano mai, però ora fare una memoria è difficile. No, perché tu hai fatto riferimento, Franco, al Dade, che io mi ricordo che avevate le coppe esposte un anno nell'allora calzature Marino, tanto ormai non c'è più, quindi sì, non faccio nemmeno pubblicità. E io mi ricordo, ero piccolo, per amicizia familiare ero sempre in quel negozio, che il Dade tutte le sere si fermava davanti a quella coppa di miglior giocatore e la venerava. E se non mi sbaglio, un anno gli è stato anche assegnato il premio come miglior giocatore. Può darsi. Questo può darsi che sia un ricordo distorto mio. No, io non mi ricordo nulla, però penso che il mondo non cambi tra l'Europa e il Fuiano. Che molto probabilmente quando si fa scegliere queste persone giocano più fattori. E non solo quelli del campo, sì, bravo, senza dubbio. No, onestamente non me le ricordo. Sì, Silvano uno che giocava, per l'amor di Dio. Poi ce la metteva tutta. Giocava, altri giocatori che vi ricordate che diciamo hanno dato lustro in generale? Per esempio, mi avete accennato al fatto che un anno con voi ha giocato un signor giocatore nel Concone, Arrigo. Sì, aveva litigato col Fogliano, venne a giocare con noi, fu di gran lunga insieme a Lidio. Sarebbe il babbo del nostro Simone, One. Sì. Avevamo praticamente una squadra imbattibile, ma si riuscì a non vincere nemmeno quella. Hanno giocato tante persone, ha giocato anche Mario Tralci. Ah, beh, diamine. Che te fece un gol del pallonetto da 30 metri, non dormisti per 3 giorni. Cioè, bisognava vedere chi trovavamo. L'ossatura, come ti ripeto, erano quelli che giocavano i tornei amatoriali durante l'anno, perché non potevano essere giocatori tesserati FIGC, oppure sì? Ma chi ci sarebbe venuto? No, non lo so se è un problema reale o virtuale. E poi il resto, molto di contorno, che secondo me hanno fatto la fortuna della manifestazione, è che era gente che giocava poco, non aveva mai giocato, che erano quelli che a vedere davano di più, magari rendevano meno, ma ti facevano la serata più sorprendente. Insomma, sì, noi si è fatto giocare, ma sì, ma facciamoli, non il Vaselli, Lorenzo Farnitani, il dottor Pedace, il dottor Chiavini, ti ricordi il dottor Libero Corti, regista, cioè cosa che oggi so da Isis questo. Cioè, noi abbiamo fatto giocare tutti, il dottor Pedace, ma lui si allenava durante la settimana, il dottor Pedace, dalla voglia che aveva di giocare, ce n'ho due d'aneddoti, ma te ne faccio uno solo, anche due. E non gli pareva il vero, essendo un pacchina, quando uno si faceva male dentro a dentro va sostituito perché entrava lui. Allora c'era il conflitto di interesse. C'era un fallo a limite dell'area, Lugna al Duce Andrea, detto Munnino, e scesi con la spalla e mi feci male. All'epoca giocavo bene, ero quasi uno dei meglio. Allora vede lui e mi disse: no, va cambiato perché tornava lui. Feci così, mi scappò, cioè mi ritornò a posto la spalla. Dico: ma che esco? me parlo per un mese. No, il dottor Pedace, diciamo che c'ha una grande passione. E quando rimando l'ambulatorio, mi lasciamo perdere. Non è che era una grande cima, però lui si allenava costantemente, andava a fare giri di campo durante la settimana, scatti. Poi quando era in campo, poi era un pochino, ti ricordi? Ah, un pochino. Era robusto. Diciamo, era robusto. Aveva un peso forma importante. Michele Di Trani giocava. Michele Di Trani aveva delle cosce. Teneva male cocca. Aveva delle cosce così. E il Moro gli faceva un corre subito appena uscite, visto come si fa da ragazzi. Che te strappi, borda, subito. Ma dai, son vere. Michele, fa piano che ti strappi, ta. Moro, avevi ragione. Poi no. Quando hai bisogno dell'acqua, mica c'hai ancora borraccia, è secchio. Altri tempi, gente, tempi aulici. Bellissimo. Grazie a Dio di averli vissuti. Un altro brano. Il forte era anche. Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Well, you can all call in if you want to answer a couple of questions. Mainly, what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a form of rock for. Let's see if it's that. Give us a ring, ding, ding. It's a beautiful day. Todd, this is Liquid, ring-a-ding-a-ding-a-ding. I want those 3 Brand Van tickets, man. What do you think? Todd, you there? Slide, man. Yeah, mighty thirsty, alright. I woke up again this morning with the sun in my eyes. When Mike came over with a script surprise. A mafioso story with a twist. A two-wrong fool, Julie Numa. Here to get your ass out of bed. He said, I'll explain it on the way. But we did nothing, absolutely nothing that day. And I say, what the hell am I doing drinking in LA at 26? I got the fever for the flavor, the payback for the labor. Still I'm in a fix. Yeah, and the girls on the bus kept on laughing at us. We rode around town down to Venice again. Flaring out the G-Funk, sipping on juice and gin. Just me and a friend, feeling kinda groovy, working on a movie. Yeah, right. But we did nothing, absolutely buckets that day. Yeah. Brown Van, questa la vorrebbe disannunciare Marcello. Brown Van 3000, con Drinking in LA, che sarebbe Los Angeles. Negli caro ultimi mio 30 Mazzi. Secondi nessuno ha capito niente. Ma è giusto così. Ma è giusto. Invece adesso si torna a capire, perché si parla ancora del torneo dei Rioni. Sarebbe bello mandare in onda anche fuori onda, ma li vedrete magari su Piazza Alta TV, perché tanti aneddoti vengono raccontati. Infatti l'audio passa, lascia il posto al video. Ma, anzi, anche se video killed Radio Star, ricordatelo sempre. Io stavo parlando appunto con Franco Del Sante, Marcello Fatucchi del torneo dei Rioni. Ma adesso veniamo a uno di quelli che, sentendo i vostri racconti, ci pare essere stato uno dei protagonisti di quegli anni. Incontrastati. Il mister del Concone, il Moro, al secolo Alfiero Bennati. Alfiero Bennati. Chi inizia? Fate voi, quello che vi viene in mente, Franco, raccontateci. Il Concone. Sono talmente tante le cose. No, il Concone ha avuto diversi allenatori. Ah, okay. Ovviamente. Uno dei primi fu Lino Marcelli. Vabbè, così vi dice niente. Lino di Caracca. Bravo. L'amor di Dio. Fatto una trasmissione a parte. e poi subentrò il Moro, esperto di calcio, grande viola, ma grande intenditore di calcio. Subentrò lui, e accettato ovviamente dalle squadre benissimo. E il Moro era un sanguigno, è un sanguigno. E quindi che vi devo dire? No, raccontaci, sicuramente ci sono degli aneddoti che... Va bene, io credo che oltre a quella che ho raccontato fuori onda, che magari ripassa, la più bellina sia sicuramente questa, che investe anche un altro personaggio molto vicino al Concone, che era il segretario dell'epoca, il dottor Mazzotti. Perché? Perché tutti e due erano allenatori a metà. Ah, ok. Vabbè, ci fu una partita dove l'arbitro non si comportò molto bene. Finita la partita, dice che partì un cazzotto. Dice, perché nessuno poi ha saputo. Dal Moro all'arbitro. L'arbitro decise di denunciare il Moro. Ah, però. E allora i puntieri ovviamente intervennero per cercare di farlo desistere. Andammo anche in sfere abbastanza alte. Elevate. Beh, fu detto che non sarebbe stato male se qualcuno avesse parlato con l'arbitro, l'avesse convinto a desistere, insomma, a fare un po' di marcia indietro. E fu scelto il dottor Mazzotti, sia per la carica che rivestiva, certo, uomo di cultura, uomo elegante, eccetera. E Mazzotti, pur essendo amico del Moro, non aveva nessuna voglia di fare questo passo, ma fu convinto. E allora partì e andò a casa dell'arbitro. Né a rimescolare delle cose, no, ma guardi qui, ma guardi là. Fatto sta che Mazzotti si cazzò più del Moro e l'arbitro denunciò il Moro e Mazzotti. E allora bisognò andare molto in alto, molto in alto. Io questa penso che è la più bellina. È meravigliosa. Ci sono altri, ma questa è carina. È meravigliosa. Che Mazzotti, ti immagini, molto cazzotto, le braccia all'arbitro, dice: ma aveva fatto da Forte Gangheri. E allora doppia denuncia. Poi vabbè, fini tutto. Grazie a te. Questa è una delle più carine. È meravigliosa, questa però... è meravigliosa. Pare che dai livelli Moro raggiunti, per scendere ce ne sia voluto di tempo. Sì, perché poteva andare a cercare chi potesse evitare. E lui, però, comunque, diciamo, bellissimo, veramente. Però diciamo che il vostro mister dell'epoca ci tenesse in modo particolare. Abbiamo visto anche come reagì all'infortunio di Marcello. Nemmeno all'ospedale mi portò. Anzi, me la picchia. Voi facevate gli allenamenti, quindi. Sì. Ecco, com'era la preparazione delle squadre? E dove veniva fatta? Perché ognuno, non c'erano otto campi, voglio dire, a Foiano. No, la preparazione la facevamo al campo di sotto, okay, perché la Cifoiano ci dava il campo per le partite, ma per gli allenamenti no, perché altrimenti quel campo sarebbe avrebbe campo lavorato di continuo, certo. È vero che si iniziava il campionato quasi chiuso, però e andavamo di sotto e anche qui, mamma mia, dai, ma mi mettete tristezza, no, vorrei raccontare quando i palloni andavo da Diavolino, no, cazzava, ma madonna brutta, mia. Ma mi viene in mente, dai, lascia perdere, dai, lascia perdere. Nei campi di grano intorno, quello accanto di là, sì, esatto. E avevamo avuto come comune una causa con il Bigozzi per un'espropriazione. È vero che c'era una rete, ma qualche volta il pallone oltrepassava la rete e allora si andava a riprendere. Madonna, era lui e la sua moglie ci venivano dietro con la faccia. Ma io cose. Dai, ragazzi, basta. Ascolta, facciamo così. La prossima due ore si parla di questo e basta. Ci si divertiva, dai. Sì, ma anche perché prima era giovane. Poi è vero quello che dice Marcello, non te voglio contraddire, ma tutto sommato c'era un buon rapporto, ci si conosceva tra amici. Certo. Prima di darsi il manone, arrivava anche il manone. Però, diciamo, però nessuno è mandato all'ospedale, cioè nessuno è mandato all'ospedale per manoni. Per il mare, per il mare, per Cuneri arredato, tutte per la condizione tutti, fisica. Io ti posso garantire che una volta si pienò, allora, quando si io, pienò una sala. Sì, quando mi feci male io, all'ospedale con me c'era il Borgogni che si era rotto un braccio. Borgogni, Borgogni maestro di musica, sì, il babbo di coso. E poi chi c'era? Ce n'era un altro che si era rotto una caviglia. Cioè, diciamo che non partiva non subito la macchina, aspettava di riempirla. Per no, ma però tornando, appunto, è stato un momento molto coinvolgente per la simpatia, per certo, la leggerezza, se vuoi, anche della manifestazione, il tempo, però molto bello. Proprio perché c'era tanta gente, sì, c'era sì, tanta gente pieno, a pieno vedere, e io penso che la partita non interessasse a nessuno. Più di tanto, sì, è vero. È possibile che a fine partita ci fosse sempre anche un piccolo... Qualcosa c'era. Mi ricordo panini, cose. Qualcosa c'era, anche se poi ognuno la viveva a modo suo, ad esempio quelli andavo qui, quelli andavo là. Io mi ricordo che andavo sempre alla Luna in Gabbia a mangiare la pizza. Sì, perché avendo perso facevo pagare avendo perso sistematicamente, io mi cavavo gratis. La cena era assicurata. Sì, insomma, una bella pizza, capito? E non è detto che non fosse anche calcolata. No. Sì, diciamo così. Qualcosa diciamo abbiamo dato. Allora facciamo così, andiamo con l'ultimo brano della stagione, caro Marzi, che non piace, a caso che ci piace. Sentirete qual è, poi vi diremo anche il titolo. E poi rientriamo per gli ultimi ricordi del torneo di Rioni per salutare i nostri ospiti e voi tutti. Buon ascolto. Mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. We do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy. Last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah, we're happy, happy. Da da da, dee da da dee da da da da da. come a time and we'll sing again. We go driving or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. You can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and only buy. When I grab people, when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, life's for living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee-dee-dee-dee-dee. Una accoppiata un po' originale, Mango e Jerry che cantano insieme. No, si chiama Mango e Jerry. In the summertime. Perché questa canzone? Perché noi ideologicamente, idealmente ci stiamo avviando alle vacanze, essendo l'ultima puntata. Il nostro cervello è già in vacanza. È già da un paio di settimane, ma stasera all'apice veramente. Noi, questa è l'ultima puntata, ovviamente avremo anche altri progetti che ci terranno certamente impegnati per tutta l'estate. E ci vedranno entrare nelle vostre case, quindi tenete ben chiuse le finestre. Se no si entra. Ma allora, finiamo alla grande, perché finiamo parlando e salutando gli nostri ospiti, Franco Del Santo e Marcello Fatucchi, parlando del torneo dei Rioni. Dei Rioni, esatto. Una cosa importantissima che finora non abbiamo detto, Marcello, questo torneo era intitolato a un carissimo amico, tra l'altro. Sì, dall'82 fu intitolato a Luciano Maccherini. Ora forse questo nome per a me mi ricorda più tanto, giovani, diciamo, a Franco non ricorda tanto, però per i più giovani no. Era un foianese morto in un modo un po' drammatico al mare dopo un grande torneo vinto a Cortona. Sarà vinto la sera, si festeggiò fino a notte tarda, sarà vinto questo torneo e lui era volle andare a letto presto perché la mattina dopo c'era da andare al mare con Valmiro. E alle 5 del pomeriggio ci arrivò questa notizia drammatica che era deceduto, sì. Mm-hmm. E allora dall'82, perché lui è morto nell'estate dell'81, dall'82, Franco credo sia quella la data, fu intestato a Luciano Maccherini. Intitolata a Luciano Maccherini. Luciano Maccherini. Però io vorrei ricordare anche altri due personaggi foianesi che hanno fatto anche la storia, anche loro, dei tornei di Rione in squadre differenti, però insomma dopo ci si ritrovava tutti nel Borgo Rosso a giocare. Uno è Ezio Del Dottore, anche insomma più conosciuto come Bocchino, certo. Morto insomma anche lui giovanissimo, e Bilancino Luciano Fabiani, certo. Uno militava nel centro, nel Foiano Centro, e Fabiani Renzino, perché lo stava Renzino, la sua squadra era Renzino, però era del Borgo Rosso, l'ala sinistra del Borgo Rosso. Sì, perché infatti del Borgo Rosso, di cui abbiamo accennato qualcosa ora, nella prossima stagione sicuramente si parlerà una puntata del interamente Borgo Rosso dedicata, perché ci sono episodi meravigliosi come quello di Marciano, che però lasciamo alla prossima stagione. Simuliamo un po' la curiosità, io per credo la prossima sia unico nella storia. Sì, penso di sì. La storia, però lo lasciamo così. Però ecco, mi ha fatto piacere proprio ricordare questi tre nomi che, certo, oltre ad essere miei coetanei, anche di Franco, erano dei personaggi squisiti, bravissimi, bravi giocatori, bravi ragazzi. E a noi ci fa piacere che si siano potuti ricordare assolutamente. Allora, il torneo di Rioni si concluse nel 1989, credo, se correggetemi se sbaglio, all'incirca 88-89. Diciamo che non ci fu un motivo ben preciso, non so Franco se puoi dirmi qualcosa di più, cioè andò a scemare l'interesse, sì, il cambio generazionale? Penso proprio di sì. Io ti posso parlare della mia esperienza. Io nell'86 mi feci male, niente di che, certo. Cioè, perse niente. Non perse niente nel Concone. Però una scusa per far giocare qualcun altro. No, decisi di non giocare più. A quello che mi ricordo ci furono 2 o 3 anni più, e poi, come dici te, andò praticamente a esaurirsi così. E secondo me, cioè, tutte le cose che ricordi ti danno un po' di nostalgia e parecchia felicità. E mi dispiace, è logico, e ripeto, la seconda volta che sono qui e spero di arrivare a 20 volte. Certo. Però, come torna a ripetere, la prima volta si parla di un uomo che è morto nel 90, ora si parla di una storia che è finita nel 90. La prossima volta chiamatemi per una storia viva del 2015. Senza dubbio, va bene. Promesso. Allora, con questa promessa a Franco Del Santo, che ringraziamo insieme a Marcello Fatucchi, che riospiteremo quindi anche lui per parlare del Borgo Rosso. Noi, Marzi, non lo so, ci congediamo qualcosa con i nostri radioascoltatori, ricordando, diciamo, il nostro profilo Facebook, dove e potete trovare tanti appuntamenti. Esatto, su cui il nostro carissimo Simone andrà a postare il podcast della trasmissione e i consigli utili per la settimana, per il fine settimana, e oppure il lunedì con un lunedì da leone, una serata da leone, vabbè, però nemmeno l'ultima puntata. Tra l'altro, stasera è d'obbligo ringraziare Alice, che ha curato la parte visiva, i video che andranno su Piazza Alta TV. Allora, grazie a tutti, grazie per averci seguito anche in questa stagione, grazie ai nostri ospiti. Ci ritroveremo, ci rivedremo, ci risentiremo tramite social, radio, eccetera. Vedremo in eccetera. Che condizioni. Vedremo in che condizioni. È stato bellissimo stare con voi. Già ci mancate, ma in qualche modo ci ritroveremo. Buon ascolto dalle F Frequenze. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Enzino e Marzi. Aspetta che ora te lo dico. Alla parte tecnica Simone. One. Alle riprese video Alice. Ice. Buona estate. Ate.